questo Vangelo di Marco, capitolo 6, versetto 30-34, meriterebbe un bel commento lungo, ma io mi fermerò alla prima frase, perché il tutto è dentro anche nel frammento. Questo vale per l'Eucaristia. Tutto il corpo di Cristo è in un'ostia consacrata, ma sta anche in un frammento. E anche la verità della parola di Dio sta nella Bibbia, ma sta anche in una frase. Ed è questa. Gli apostoli si riunirono attorno al Signore Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Io mi soffermo su questa frase perché io ci ho trovato una ricchezza straordinaria che cercherò di condividervi un po'. Cioè, il Signore ci insegna, il Vangelo ci insegna che noi dobbiamo condividere le cose belle che abbiamo fatto, le cose che avevano fatto e quello che avevano insegnato. C'è una frase che io ho incontrato che esprime molto bene. Il dolore condiviso resta diviso. La gioia o i frutti comunicati vengono moltiplicati. Ed è vero. Se uno si sfoga con un altro della sua fatica, il dolore poi ce l'ha sempre addosso lui. Però te mi sono sfogato un po', no? O se tu comunichi, cosa che è meno facile, le cose belle che Dio ha operato in te, la gioia tua diventa gioia di tutti. Questo è ciò che sta alla base dei Vangeli. I Vangeli sono dall'inizio alla fine una condivisione di tutte le cose belle che sono state fatte. Se noi abbiamo i Vangeli è perché alcuni, gli apostoli, hanno raccontato agli altri. Quel giorno Gesù ha detto così, così, così. Quell'altro giorno Gesù, vedendo un cieco, ha fatto cosà, cosà, cosà. E mentre raccontano, condividono le meraviglie di Dio. E il Magnificat che cos'è se non una stupenda condivisione? L'anima mia magnifica il Signore perché Egli ha fatto in me cose grandi. Nella condivisione, se è fatta bene, non c'è superbia. La superbia c'è quando ci vantiamo. Ma se tu condividi le cose di Dio dicendo che grandi cose ha fatto il Signore in me, condividi i doni di Dio. E le autobiografie dei santi, le confessioni di Sant'Agostino, storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino, il diario di Suor Faustina Kowalska, oppure la storia della spiritualità è piena di autobiografie, la vita di Santa Teresa di Gesù, diario giornale dell'anima di San Giovanni XXIII, e in genere io vi suggerisco di andare a leggere le autobiografie, perché narrano la storia del santo, della santa, ma dalla sua stessa voce, dalla sua stessa penna. E noi condividiamo le cose belle che Dio ha fatto in noi? Chissà. Certo, bisogna condividerle con lo stile giusto, no? Anzitutto non dobbiamo vergognarci di dire le nostre esperienze sante, perché faremmo come gli apostoli, faremmo come la Madonna, che doniamo agli altri. Certo, bisogna donarle non con autocompiacimento, donarle anche con uno stile modesto, sobrio, non di quelli che è lo stile giornalistico, che non finiscono mai, che desideri che la smettano, no? Il contrario della condivisione che cos'è? È il mutismo. Pensate nelle nostre famiglie, quando ci si riunisce alla sera, se ci fosse una condivisione, invece di diventare tutti ascoltatori della televisione. condividere. E allora il papà porterebbe a casa la sua esperienza e le sue fatiche e le sue gioie. La mamma metterebbe in comune in famiglia le sue fatiche e le sue gioie. I figli raccoglierebbero. E invece quanta tristezza quando vedi dei cellulari a tavola. Quando vedi, io ho visto una ragazzina, figlia unica, dico, ma non c'è tua figlia, ero in giro a benedire le case. Ma è là in camera sua, sta mangiando. La famiglia era riunita a tavola. Lei era nella sua camera, davanti al suo tavolino c'era il televisore, suo personale, e lei mangiava il cibo e mangiava tutte le storie della televisione. Questo è proprio il massimo della divisione. E bisognerebbe che nelle nostre case non si cadesse in questi errori, vero? Allora, condividiamo le cose belle, il contrario è il mutismo, o il contrario della condivisione è la critica. Quando noi condividiamo, sì, ma non le nostre cose belle, ma gli sbagli degli altri. Questo capita anche a certa gente quando va a confessarsi, quando comincia a raccontare le cose degli altri. Io in genere li blocco subito e dico, ma sei venuto a confessare i tuoi peccati o i peccati della tua nuora o della tua suocera? No, ma io lo dicevo perché, sa, mi devo sfogare. E allora lo facciamo in un altro momento, fuori dalla confessione, perché la confessione è affidare i nostri peccati a Dio. Ma quante critiche noi facciamo che è esattamente l'opposto peccaminoso della condivisione delle cose belle. Auguri.